ad alta voce. Anna Maria Guarnieri legge Cime tempestose di Emily Bronte. Traduzione di Margherita Giacobino. Passarono 7 giorni e ognuno lasciò un segno di rapido peggioramento sulla salute di Edgar Linton. Avremmo voluto tenere Catherine all'oscuro, ma la sua prontezza di osservazione non ce lo permise. Il suo viso era segnato dall'ansia e dalla mancanza di sonno, e il mio padrone le diede volentieri il permesso di prendersi un po' di svago, in quello che lui credeva fosse un altro ambiente e un'altra compagnia, e fu confortato dalla speranza che lei non sarebbe rimasta del tutto sola dopo la sua morte. Era un dorato pomeriggio di agosto, e ogni soffio di aria che veniva dalle colline era così pieno di vita che sembrava di poter infondere vitalità in chiunque lo respirasse, anche in un morente. Il viso di Catherine era proprio come il paesaggio. Ombre e sole vi passavano in rapida successione, ma le ombre si fermavano a lungo e il sole scompariva subito. Scorgemmo Linton che ci aspettava nello stesso posto della volta precedente. La mia padroncina mi disse che aveva intenzione di trattenersi molto poco, perciò era meglio che io rimanessi a cavallo e tenessi le redini del suo pony, ma io non ero d'accordo, non volevo perderla di vista neppure per un minuto. Così risalimmo insieme il pendio coperto di Erica. Il signorino Linton ci salutò molto più animatamente questa volta, anche se non sembrava mosso da esultanza o gioia, ma piuttosto da paura. «È tardi», disse parlando con difficoltà e con voce rotta. «Tuo padre non sta malissimo? Credevo che non venissi». «Ma perché non dici la verità?» gridò Catherine. «Perché non mi dici semplicemente che non hai voglia di vedermi? È strano, Linton. È la seconda volta che mi fai venire qui apposta per mettere a disagio te e me». Linton fu scosso da un tremito e la guardò mezzo supplicante e mezzo vergognoso. Ma sua cugina non aveva abbastanza pazienza per sopportare questo comportamento. «Mio padre sta malissimo, infatti», disse. «E per che cosa sono stata costretta a lasciare il suo capezzale? Perché non mi hai mandato a dire che mi dispensavi dalla mia promessa, quando in realtà volevi che non la mantenessi? Dimmelo, voglio una spiegazione. Non sono nello stato d'animo per giocare e scherzare e ora non posso stare dietro alle tue messe in scena». «Le mie messe in scena?» mormorò lui. «Di che cosa stai parlando? Per amor del cielo, Catherine, non essere così in collera. Disprezzami pure, quanto vuoi. Sono un disgraziato, indegno e codardo. Non ci sono parole per dire quanto poco valgo, ma sono un bersaglio troppo meschino per la tua collera. È mio padre che devi odiare. Per me puoi provare soltanto disprezzo». «Sciocchezze!» gridò Catherine fuori di sé. «Sei un ragazzo stupido e insensato. Eccolo che trema, come se volessi mettergli le mani addosso. Non hai bisogno di chiedere di essere disprezzato, Linton. Chiunque lo farebbe spontaneamente e finché vuoi. Vattene, io torno a casa e lascia stare il mio vestito. Alzati, non strisciare come un rettile abbietto, smettila!» Linton, in lacrime e con un'espressione di angoscia, si era gettato a terra e il suo povero corpo sembrava in preda a spasmi di terrore. «Mio padre mi ha minacciato», ansimò il ragazzo torcendosi le dita esili, «e io ho paura di lui. Ho paura di lui. E perché non ho il coraggio di dirtelo?» «E allora», disse Catherine, con compassione sprezzante, «tieniti il tuo segreto. Io non sono una vigliacca. Salva te stesso. Per me non ho paura». La sua grandezza d'animo lo fece scoppiare in lacrime. Pianse disperatamente baciando le mani che lo sostenevano, ma non trovò il coraggio di parlare. Stavo pensando quale potesse essere quel mistero, ben decisa a impedire che Catherine soffrisse, quando, sentendo un fruscio fra l'erica, alzai gli occhi e vidi il signor Heathcliff che si avvicinava, scendendo da Cime tempestose. Non degnò di uno sguardo quei due, benché fosse abbastanza vicino da poter sentire i singhiozzi di Linton, ma si rivolse a me, salutandomi con quel tono quasi cordiale che non usava con nessun altro e della cui sincerità non potei fare a meno di dubitare. «È un avvenimento vederti così vicina a casa mia, Nelly. come vanno le cose alla Grange? Dicono, proseguì a bassa voce, che Edgar Linton è sul letto di morte. Forse esagerano la gravità della sua malattia? No, il mio padrone sta morendo, risposi. È proprio vero. Per noi sarà una disgrazia, ma per lui una benedizione. Quanto credi che durerà? Mi chiese Heathcliff. Non lo so. Quel ragazzo laggiù sembra deciso a farmele in barba e sarei contento che suo zio si sbrigasse ad andarsene prima di lui. È andato avanti così per un pezzo, il piccolo? Eppure gli ho dato qualche lezione per insegnargli a non piagnucolare. Un po' di vivacità con la signorina Linton la tira fuori di solito? No, dimostra solo un grande malessere, risposi. A vederlo, direi che invece di andarsene a spasso per le colline con la sua innamorata, dovrebbe starsene a letto, affidato alle cure di un medico. È lì che starà fra un paio di giorni, brontolò Heathcliff, ma prima... Alzati, Linton, alzati, urlò. Non strisciare per terra, tirati su immediatamente. Linton si era nuovamente lasciato cadere in un altro parossismo di impotente terrore, causato dallo sguardo di suo padre. Sì, papà, ansimò lui, però lasciami solo, se no svengo. Ho fatto tutto quello che volevi, ne sono sicuro. Catherine ti dirà che io sono stato allegro. Oh, Cathy, stammi vicino, dammi la mano. Prendi la mia, disse suo padre, e cerca di stare in piedi. Ecco, ora lei ti darà il braccio, bravo, è lei che devi guardare. Penserà che io sia il diavolo in persona, signorina Linton, per provocare un tale spavento. Abbi la gentilezza di accompagnarlo a casa, ti dispiace? Se lo tocco, si mette a tremare. Linton, caro, sussurrò Catherine, io non posso venire a Cime Tempestose. Papà me lo ha proibito. Non ti farà del male. Ma perché hai tanta paura? Non posso rientrare in quella casa, rispose lui. Non devo rientrare senza di te. Basta così, gridò suo padre. Rispetteremo gli scrupoli filiali di Catherine. Nelly, accompagnalo tu. E io seguirò il tuo consiglio riguardo al medico. Farà bene, risposi. Ma io devo restare con la mia padrona. Non è compito mio occuparmi di suo figlio. Come sei rigida, disse Heathcliff. Lo sapevo, mi costringerai a pizzicare il bambino per farlo piangere prima che ti venga un po' di compassione. Vieni dunque, mio eroe. Vuoi tornare a casa con me? Si avvicinò una seconda volta e fece il gesto di afferrare quell'essere gracile. Ma Linton si ritrasse e si aggrappò alla cugina implorandola di accompagnarlo in modo così frenetico e insistente che non era possibile rifiutare. Nonostante la mia disapprovazione, non potevo impedirglielo. In effetti, come avrebbe potuto lei stessa respingerlo? Non potevamo sapere che cosa lo riempisse di paura, ma eccolo lì, impotente, nella morsa del panico, e sembrava che bastasse un niente per portarlo alla pazzia. Arrivammo sulla soglia di casa. Catherine entrò e io rimasi fuori aspettando che ritornasse, ma il signor Heathcliff mi spinse dentro esclamando: non c'è la peste in casa mia, Nelly, e ho deciso di essere ospitale oggi, perciò siediti e permettimi di chiudere la porta. E la chiuse a chiave. Io trasalii. Prenderete il tè prima di andare a casa? Sono solo. Ayrton è andato a portare del bestiame a Lys e Zilla e Joseph sono fuori in gita. E benché abituato alla solitudine, preferisco la compagnia di gente interessante, se possibile. Signorina Linton, siediti vicino a lui. Ti do quello che ho. Il regalo vale poco, ma non ho altro da offrire. Sto parlando di Linton. Come mi guardano. È strano, disse. Che sensazione selvaggia mi prende quando qualcuno sembra avere paura di me. Se fossi nato in un paese dove le leggi sono meno severe e i gusti meno delicati, mi concederei il piacere di vivisezionare con calma questi due come divertimento serale. Trattenne il fiato, batté un pugno sul tavolo e imprecò fra sé: «Io li odio, maledizione!» «Io non ho paura di lei!» esclamò Catherine, e gli si avvicinò con gli occhi neri lampeggianti di decisione e di collera. «Mi dia quella chiave, me la deve dare», disse. «Non mangerei né berrei nulla qui dentro, neppure se stessi morendo di fame». Heathcliff aveva la chiave nella mano che teneva sul tavolo. Alzò gli occhi, colto dallo stupore per l'audacia di lei, oppure ritrovando in quella voce e in quello sguardo la donna dalla quale Catherine li aveva ereditati. Lei si gettò sulla chiave e ci mancò poco che non riuscisse a strappargliela dalle dita allentate, ma il suo gesto lo richiamò alla realtà e velocemente chiuse il pugno. «Catherine Linton», disse, «allontanati o finirai stesa a terra, e questo farà molto arrabbiare la signora Dean». Senza dare retta al suo avvertimento, lei gli afferrò di nuovo la mano chiusa attorno alla chiave. «Noi vogliamo andarcene di qui», ripeté, usando tutta la sua forza per cercare di distendere quei muscoli di ferro, e scoprendo che con le unghie non otteneva nulla, ricorse ai denti con tutta la forza. Heathcliff mi lanciò uno sguardo che mi impedì per un istante di interferire. Catherine era troppo concentrata sulle dita di lui per guardarlo in faccia. Improvvisamente lui aprì la mano e consegnò l'oggetto della contesa. Ma prima che lei se ne fosse impadronita, la afferrò con la mano ormai libera e, tirandosela sulle ginocchia, con l'altra mano le somministrò sulle guance una serie di tremendi schiaffi. Davanti a questa violenza diabolica, mi buttai furiosa contro di lui. «Farabutto!» cominciai a gridare. «Farabutto!» Bastò un piccolo colpo sul petto a farmi tacere. «Sono grassa e ci vuole poco perché mi manchi il fiato». E fra il colpo e la rabbia arretrai vacillando stordita, con la testa che girava come se stessi per soffocare. La scena non durò che pochi istanti. Catherine, lasciata libera, si portò le mani alle tempie, come se volesse accertarsi di avere ancora le orecchie. Poi corse da me, si inginocchiò e mi nascose in grembo le guance brucianti, piangendo forte. Suo cugino si era rannicchiato in un angolo del divano e se ne stava zitto zitto. Il signor Heathcliff, vedendoci tutti sconvolti, si alzò e preparò rapidamente il tè lui stesso. Mise in tavola tazze e piattini, lo versò e mi porse una tazza. «Bevi, che ti passa il malumore», mi disse, «e servi la tua marmocchia viziata, è il mio. Non è avvelenato, anche se l'ho preparato io. Vado a prendere i vostri cavalli». Il nostro primo pensiero, non appena se ne fu andato, fu di cercare di uscire in qualche modo. Provammo con la porta della cucina, ma era chiusa dall'esterno. Guardammo le finestre. Erano troppo strette anche per la taglia snella di Cathy. «Signorino Linton», gridai, vedendo che eravamo prigioniere a tutti gli effetti. «Lei lo sa che cosa ha in mente quel demonio di suo padre e ce lo dirà, o io la prenderò a ceffoni, come ha fatto lui con sua cugina». «Sì, Linton, devi dirlo», intervenne Catherine. «È per te che sono venuta e sarebbe una tremenda ingratitudine rifiutare». «Dammi del tè, ho sete, poi te lo dirò», rispose lui. «Signora Dean, vada via. Non mi piace che mi stia così addosso. Insomma, Catherine, stai facendo cadere le tue lacrime nella mia tazza. Quello non lo bevo. Dammene un altro». Catherine spinse un'altra tazza verso di lui, asciugandosi il viso. Era disgustata di vedere quel piccolo disgraziato così tranquillo, ora che non aveva più paura per se stesso. L'agitazione che aveva manifestato nella brughiera era sparita, non appena varcata la soglia di Cime Tempestose. Perciò immaginai che fosse stato minacciato di spaventose ritorsioni se non fosse riuscito ad attirarci là. E una volta compiuta la sua missione, Non aveva altri timori immediati. «Papà vuole che ci sposiamo», continuò dopo aver sorseggiato un po' di tè. «Sa che tuo padre non permetterebbe che ci sposassimo adesso e ha paura che io muoia se aspettiamo. Così ci sposeremo domani mattina e tu perciò passerai la notte qui. Se fai come vuole lui, potrai tornare a casa il giorno dopo e portarmi con te». «Passare la notte qui? No», disse Cathy guardandosi attorno lentamente. «Ellen, io uscirò di qui, a costo di dare fuoco a quella porta». E avrebbe messo immediatamente in atto la sua minaccia se Linton non avesse ripreso ad agitarsi, preoccupato per se stesso. La strinse con le sue deboli braccia, singhiozzando. «Non vuoi prendermi con te e salvarmi? Non vuoi lasciarmi venire alle Grange? Oh, cara Catherine, non puoi andartene e lasciarmi così. Devi obbedire a mio padre, devi!» «Devo obbedire al mio», rispose lei, «e risparmiargli questa terribile ansia. Tutta la notte, che cosa penserebbe? Sarà già ora in pensiero. Troverò un'altra via d'uscita, scassinerò una porta e le darò fuoco. Sta calmo, tu non corri nessun pericolo. Ma se cerchi di trattenermi, Linton, io voglio più bene a mio padre che a te». Mortalmente terrorizzato all'idea che il signor Heathcliff andasse in collera, quel codardo recuperò la sua eloquenza. Catherine ne fu quasi abbindolata, ma continuò a dire che doveva andare a casa e a sua volta cercò di convincerlo a controllare quella sua paura egoista. Nel frattempo, il nostro carceriere tornò. «I vostri cavalli se ne sono andati», disse. «Linton, stai di nuovo piagnucolando? Che cosa ti ha fatto? Su, su, finiscila e vattene a letto. Fra un paio di mesi, ragazzo mio, avrai un braccio abbastanza vigoroso per farle pagare quello che ti infligge adesso. Ti stai consumando per puro amore, non è vero? Per nessun altro motivo al mondo, e lei ti avrà. Su, a letto. Zilla non c'è stasera. Devi spogliarti da solo. Zitto! Basta fare chiasso. Non appena sarai in camera tua, ti lascerò in pace. Non avere paura. Per fortuna sei riuscito a cavartela passabilmente. Al resto ci penso io». Mentre diceva quelle parole, tenne la porta aperta per far passare suo figlio, il quale uscì guardingo e frettoloso, come un cagnolino che sospetti di venire schiacciato a tradimento. La porta fu richiusa a chiave. Heathcliff si avvicinò al fuoco, dove la mia padrona e io stavamo in silenzio. Catherine alzò gli occhi e istintivamente si portò la mano alla guancia. «Non mi tirerò indietro», disse. «Lo sposerò anche subito, se dopo potrò andare alla Grange. Signor Heathcliff, lei è crudele, ma non è un demonio e non vorrà per pura malvagità rendermi infelice per sempre. Se papà pensasse che io l'ho abbandonato di proposito e se morisse prima del mio ritorno, come potrò sopportare di vivere? Ho smesso di piangere, ma mi inginocchierò qui, ai suoi piedi, e non mi alzerò e non smetterò di guardarla negli occhi finché non mi abbia guardata. No, non si volti, mi guardi. Non vedrà niente che la faccia arrabbiare. Io non la odio, non le porto rancore per avermi picchiata. Non ha mai amato nessuno in vita sua, zio, mai. Mi guardi almeno una volta, guardi in che stato sono. Non può non avere pietà di me. Tieni lontano da me le tue viscide dita e togliti di lì, o ti prendo a calci», urlò Heathcliff respingendola brutalmente. «Preferirei essere abbracciato da una serpe. Come diavolo osi adularmi? Io ti detesto». Scrollò le spalle e si scosse tutto, come se fosse davvero percorso da un brivido di repulsione. Spinse indietro la sedia, in quel momento mi alzai e aprì la bocca per coprirlo di insulti, ma fui messa a tacere dalla minaccia di essere rinchiusa in un'altra stanza da sola se avessi detto un'altra parola. Si stava facendo scuro. Sentimmo delle voci al cancello del giardino. Il nostro ospite si precipitò immediatamente fuori. Sapeva quello che faceva, lui. Noi, invece, no. Si sentì parlare per qualche minuto. Poi lui tornò indietro, da solo. «Erano tre domestici venuti a cercarvi dalla Grange», disse Heathcliff. «Avresti dovuto aprire una finestra e metterti a gridare. Ma ci giurerei che quella sfacciatella è contenta che tu non l'abbia fatto. Sono sicuro che sia contenta di essere costretta a rimanere. Nel renderci conto di quale occasione avessimo perduto, scoppiamo entrambi a piangere senza freno. Lui lasciò che ci sfogassimo fino alle 9. Poi ci ordinò di andare di sopra, in camera di Zilla, passando per la cucina. Nessuna di noi due si mise a letto. Catherine si appostò alla finestra e aspettò ansiosamente il mattino. La pregai più volte di riposare, ma non ottenne in risposta che un profondo sospiro. La mattina dopo, alle 7, lui arrivò e chiese se la signorina Linton si era alzata. Lei corse immediatamente alla porta e gli rispose: «Sì». Mi alzai per seguirla, ma lui richiuse a chiave. Chiesi che mi facesse uscire. «Abbi pazienza», mi rispose. «Fra un po' ti manderò la colazione». Battei i pugni contro i pannelli della porta e scossi con rabbia il chiavistello. Catherine domandò perché venivo tenuta ancora rinchiusa e lui rispose che dovevo resistere ancora per un'ora. Poi andarono via. Rimasi chiusa là dentro per tutto il giorno e per tutta la notte. E per un altro giorno e un altro ancora. Rimasi per 5 notti e 4 giorni senza vedere nessuno tranne Herton, che veniva ogni mattina ed era un secondino modello, scontroso, muto e sordo a ogni mio tentativo di risvegliare il suo senso di giustizia o la sua compassione. Thank you.